Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di Africa, un continente in movimento, come dice il titolo del libro edito dal Mulino di Federico Bonaria e Lucia Wegner, un libro che racconta appunto lo stato dell'arte dell'Africa, un continente di cui si parla poco ma di cui merita parlare molto. Federico Bonaria, buonasera. Buonasera. Economista, capo divisione dell'OCSE e ha realizzato negli anni scorsi insieme a Lucia Wegner. Buonasera Lucia Wegner. Buonasera. Questo progetto, questo studio sull'economia africana. Lucia Wegner è economista senior presso l'Università di Wageningen ed è stata a lungo per qualche anno all'OCSE. Allora io comincerei proprio con Lucia Wegner. Un continente in movimento. L'Africa, 54 o forse 58 paesi, ma forse parlare di Africa è un'approssimazione, dovremmo parlare di Afriche. Sì, esattamente, perché in effetti non si può guardare l'Africa come un continente monolitico. L'Africa è fatta di tantissime sfaccettature, tantissime contraddizioni e opportunità. È interessante vedere che in generale le immagini che vengono associate all'Africa sono quelle di povertà, di arretratezza, di conflitti, però la realtà oggi è completamente diversa. Quello che noi abbiamo cercato di fare con questo volume è stato proprio quello di sfatare alcuni luoghi comuni, come quello di dire che l'Africa come continente è condannato al sottosviluppo. Esistono tante Afriche e in generale l'Africa ha veramente avuto una rinascita negli ultimi 10 anni. Ci sono economie africane e paesi che hanno registrato i tassi di crescita più elevati del mondo. Ecco, quali sono questi paesi? In quali aree c'è soprattutto questa crescita economica e quali sono le basi di questa crescita? Dunque, in generale, se guardiamo agli ultimi anni, ad esempio dal 2008 al 2013, noi abbiamo un dato aggregato che ci dice che l'Africa in generale come continente è cresciuta del 4,5%, quindi in generale in un momento storico in cui tantissime economie avanzate sono in recessione e stagnazione, abbiamo dei paesi che stanno crescendo rapidissimamente. Quali sono questi paesi, appunto? Soprattutto sono quelli che esportano materie prime, ad esempio petrolio, oro o altri metalli, mentre ci sono altri paesi che hanno avuto una performance meno soddisfacente, come ad esempio quelli che sono ancora caratterizzati da tensioni politiche, mi viene in mente ad esempio i paesi del Nord Africa come l'Egitto, la Libia, che continuano a essere in una situazione di tensioni politiche e sociali notevole, oppure il Sud Sudan o la Repubblica Centroafricana. Quindi se noi vogliamo vedere veramente da dove nasce il boom dell'Africa e quali sono questi paesi che stanno crescendo, dobbiamo sicuramente guardare a un fattore esterno molto importante, che è quello della forte domanda di materie prime e delle economie emergenti, in particolare penso alla Cina, perché questo si è tradotto in un aumento molto elevato del prezzo del petrolio, dell'oro, del rame, di altri metalli e quindi ha trascinato la crescita di paesi produttori di questi beni, come ad esempio la Zambia per quanto certo riguarda il rame, piuttosto che il Botswana per i diamanti o l'Angola per il petrolio. Ecco, però una crescita basata sulle materie prime è una crescita di per sé fragile, anche perché le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, ma soprattutto perché non crea le basi poi per una crescita propria dei singoli paesi. Vorrei chiedere a Federico Bonaria, in questa prospettiva, anche citando l'introduzione di Romano Prodi, in cui mette in luce come uno dei grandi problemi dell'Africa, dei paesi africani, siano le classi dirigenti. Ecco, che prospettive ci sono sul fronte della governance dei paesi africani? Federico Bonaria. Sì, grazie. Guardi, uno può guardare sempre il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, si può guardare l'esperienza di paesi come lo Zimbabwe, che hanno un leader, il presidente Mugabe, che è presidente del paese dall'indipendenza, quindi ormai da oltre 30 anni abbiamo lo stesso leader alla testa di un paese, situazione che si ripete con alcune sfumature in termini di dai 25 ai 30 anni in alcuni altri paesi africani, quindi questo sicuramente è il bicchiere mezzo vuoto. D'altra parte ci sono paesi che invece hanno visto l'emergere di una nuova classe dirigente, legato anche allo sviluppo di una classe media in molti paesi africani. E io penso che se si guarda all'esperienza storica dell'Africa e alla precedente esperienza di boom delle materie prime, ci sono molte lezioni che possono essere considerate. Uno dei motivi principali del sottosviluppo africano è stato che i governanti africani nel periodo post-indipendenza non hanno saputo mettere in atto delle politiche sostenibili, delle politiche economiche, delle politiche industriali sostenibili, e hanno sperperato una fase espansiva del ciclo economico internazionale, indebitandosi, e quando quindi poi la condizione esterna, in particolare i tassi di interesse, sono aumentati verso la fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, si sono dovuti, sono confrontati a una crisi del debito, avevano altissimo debito da rimborsare con tassi di interesse crescenti. Rispetto a quella esperienza, credo che oggi noi siamo in una situazione migliore, e questo è il bicchiere mezzo pieno, perché uno dei motivi che ha sicuramente trascinato la crescita africana nell'ultimo decennio è stato quello di migliori politiche macroeconomiche. Noi nel libro cerchiamo di identificare i 4-5 drivers, i 4-5 fattori chiave della crescita africana. Sicuramente, come diceva Lucia, la domanda esterna della Cina, il boom delle materie prime, ma le migliori politiche economiche sono state sicuramente un fattore decisivo, come pure il consolidamento diplomatico, dove abbiamo constatato che in numerosi paesi africani si tengono ormai elezioni, si hanno sistemi multipartiti più seri di quanto non fosse il passato. Quindi noi siamo in questo libro dal lato degli ottimisti, non degli ottimisti eccessivi, certo, siamo degli ottimisti realisti. In qualche punto parlate anche di rinascimento africano, di possibilità appunto di queste economie di svilupparsi. L'Africa ha un grande traino, per esempio, della crescita demografica, che è incomparabile con quella di paesi come quelli del vecchio continente, che è ormai un continente vecchio. Ma Lucia Wegner, in questa prospettiva indubbiamente c'è bisogno anche di una crescita di infrastrutture, una crescita della realtà economica dei singoli paesi. Qualcosa si sta muovendo sotto questo profilo? Sì, sicuramente qualcosa si sta muovendo, nel senso che vediamo che in molti paesi c'è un impegno dei governi a migliorare non solo appunto il clima infrastrutturale, il clima degli affari e anche il quadro normativo per favorire un'iniziativa privata, eccetera, ma anche proprio, come diceva prima Federico Bonaglia, anche in termini di governance ci sono dei progressi considerevoli, però le sfide restano enormi, nel senso che in generale si è parlato di crescita, una crescita sostenuta per 10 anni, ma la domanda cruciale è capire se questa crescita si è poi tradotta effettivamente in un miglioramento delle condizioni di vita, certo, della popolazione. Ecco, è importante anche guardare che cosa possono fare gli altri, l'Europa, ma si parla molto della presenza cinese in Africa, e vorrei chiedere a Federico Bonaglia come giudica questa presenza, rapidamente, sia della Cina, sia di che cosa può fare l'Europa, che ha di fronte anche il grande problema dell'immigrazione, che si deve contrastare facendo crescere i paesi da dove vengono gli immigrati. Federico Bonaglia. Allora, io vorrei cominciare da un dato, perché penso sia importante ricordare da dove partiamo. Come diceva Lucia, l'Africa è cresciuta tra il 2008 e il 2013 a circa il 5%. La proiezione che noi facciamo per il prossimo biennio nel nostro African Economic Outlook, un rapporto che produciamo ogni anno qui all'OCSE, è che l'Africa crescerà nel 2014 del 4,8% e nel 2015 del 5,7%. Quindi cifre che noi in Europa ci sogniamo. Questa crescita, come dicevamo, è molto legata ai fattori esterni. La Cina, ma non solo, il Brasile, l'India, ma anche la Turchia, la Corea. L'Europa resta un partner commerciale molto importante, questo in virtù anche degli accordi di Cotonou e della situazione preferenziale che i paesi africani hanno al mercato europeo, ma purtroppo sta diventando un partner un po' marginale. E quindi il recente summit a Bruxelles tra i capi di Stati africani e i capi di Stati europei è stata un'opportunità importante per ricalibrare questo dialogo Europa-Africa, che deve mettersi su delle nuove rotaie, dove gli africani e gli europei cercano di identificare degli interessi comuni nell'agenda globale che possono affrontare assieme in virtù della prossimità che l'Europa ha con l'Africa. Quindi non più guardare alle relazioni Europa-Africa come se noi fossimo i buoni alunni che forniscono l'aiuto allo sviluppo e gli africani devono ricevere questo aiuto e mettere in atto delle condizioni che noi decidiamo da qualche parte sulla base di qualche consenso di Washington o post-Washington. Certo. La relazione deve evolvere verso una dove entrambi questi partner affrontano delle questioni globali. Quella della migrazione è sicuramente una questione molto importante. L'idea che lo sviluppo di un paese riduca la migrazione è un po' un luogo comune. Ci sono studi recenti che mostrano come anche a livelli di sviluppo sostenuto le persone continuano a migrare, anche perché per esempio hanno avuto accesso a migliore formazione, certo, o migliore educazione, quindi cercano opportunità altrove. Quindi non è questo dialogo, non può basarsi su noi vi facciamo crescere così smettete di mandarci delle persone. Deve essere fatto su basi più ragionevoli e sostenibili. Ecco, però è giusto che l'Africa venga aiutata a crescere, venga aiutata a crescere. L'Europa dovrebbe muoversi forse di più, ma dovrebbe essere un'Europa anche più unita. Non tutti i paesi guardano l'Europa, poi l'Europa è in fondo costituita da tutti i paesi, quindi ognuno dovrebbe assumersi in questa prospettiva le sue responsabilità, ed è in un momento forse un po' difficile questo. Comunque grazie a Lucia Werner e a Federico Bonaria per averci fatto questo quadro dell'Africa, un quadro che emerge con grande chiarezza nel libro Africa, un continente in movimento, un libro edito dal Mulino con presentazione di Romano Prodi, costa 18 euro e ha 240 pagine. Grazie ancora a Lucia Werner e Federico Bonaria, grazie anche a Valeria Bernardi in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento è per sabato prossimo.